Scusi, signore? Sì, signorina? C'è un ospedale qui vicino? Un ospedale, certo! E per andare... Ah, vuole andare all'ospedale? Sì. Ah, sì. Bene. Dunque, lei attraversa la strada, va bene? Sì. E prende la seconda a sinistra, va bene? Sì. Continua a dritto fino all'incrocio, va bene? Sì. All'incrocio gira a destra, va bene? Giro a destra, sì. L'ospedale è là, sulla destra. O sulla sinistra? Non sono sicuro. Un attimo. Signora, scusi. Sì? Per andare all'ospedale. All'ospedale, ma non sta bene. Io? No, sì, sì, io sto bene. Lei sta bene, signorina? Ma sì. Ah, bene. Sì, ma dov'è l'ospedale? Ma è piuttosto lontano, ma è facile. Lei prende la prima a sinistra. No, è la seconda a sinistra. No, no, guardi, per andare all'ospedale prende la prima a sinistra e poi la seconda... No, per niente. Ma sì, prende la prima a sinistra e poi la seconda a destra. Continua fino alla posta. La posta? Sì. L'ufficio postale sulla sinistra? Non c'è un ufficio postale sulla sinistra! Come? Signore e signora, scusi! Non c'è un ufficio postale! No! Per favore, signora! È sicuro? Ma perché...